Eccoci, siamo lodati Gesù e Maria. Allora, oggi, sempre con l'aiuto di Dio, dovremo approfondire un po' la storia personale di Davide. Se vi ricordate, la volta scorsa abbiamo concluso la tragica vicenda di Saul, dove chiaramente al suo interno è comparsa la figura di Davide, perché c'è un periodo della vita di questi due personaggi che si interseca, ecco, l'uno con l'altro. Oggi approfondiremo la vita di Davide. Davide, uomo secondo il cuore di Dio, ma vedremo anche grande peccatore. Diciamo che la vicenda di Davide ci insegna un po' questo mistero dell'elezione divina, che, come abbiamo visto la volta scorsa, non cade in base a ciò che sembrerebbe bene agli occhi dell'uomo, ma in base a ciò che Dio reputa buono, e che però non pone al riparo da eventuali grossi capitomboli. E vedremo che Davide ne fa di non piccoli. E la vicenda di Davide è molto molto importante proprio per comprendere la serietà del peccato e delle sue conseguenze. Questo è un pochino, perché tutta la vita di Davide è segnata da un grandissimo peccato che lui fa, per cui la paga per tutta la vita, e poi tra l'altro con un altro che ne fa al termine del regno, per cui va incontro a ulteriori guai. Comunque, seguiamo adesso gradualmente un po' la vicenda di questo grande personaggio. Sapete che Davide è autore della stragrande maggioranza dei salmi. Su 150, adesso non vorrei dire uno sfrondone, però sicuramente almeno 100 sono suoi. Quindi vedremo anche le circostanze in cui alcuni salmi, uno in particolare, sono stati composti. Quindi la vicenda di Davide si trova fondamentalmente, abbiamo visto qualcosa già nel primo libro di Samuele e poi nel secondo libro di Samuele. Vedremo che gli ultimi giorni di Davide e la morte sono descritti nel libro biblico successivo, che è il primo libro dei re, che appunto oggi lambiremo. Poi la prossima volta vedremo per la storia di Salomone, poi passeremo direttamente, saltando un po' un periodo storico, ai libri dei Maccabei. Comunque, per ora proseguiamo. Allora, prima cosa, abbiamo visto la volta scorsa la decadenza di Saul, abbiamo lasciato Saul che muore, e quindi si apre il problema della successione. Noi sappiamo che Davide era già stato unto re da Samuele, quindi bisogna vedere quando è che effettivamente prende possesso di Giuda e di Israele. Ho detto Giuda era il cuore, diciamo così, di Israele. Giuda è quel territorio, ricordate che quando Gesù parla dei giudei, è circostante la città di Gerusalemme, abbastanza grande, e appunto assegnato a Giuda, che era il figlio di Abramo, da cui discende la tribù regale. Saul non era figlio di Giuda, era figlio di Beniamino, era della tribù di Beniamino, come vi ricorderete dalla volta scorsa. E vedremo come Davide si insinua prima in Giuda, in particolare in Gerusalemme, in Hebron, e poi in tutto Israele. Allora, anzitutto Davide re di Giuda, leggiamo adesso l'episodio che è il secondo capitolo del libro di Samuele, versetti da 1 a 7. Dopo questi fatti Davide consultò il Signore dicendo: devo salire in qualcuna delle città di Giuda? Il Signore gli rispose: sali. Chiese ancora Davide: dove salirò? Rispose: a Hebron. Davide dunque vi salì con le sue due mogli, Achinoam di Israele e Abigail, già moglie di Nabal di Carmel. Davide portò con sé anche i suoi uomini, ognuno con la sua famiglia, e abitarono nelle città di Hebron. Vennero allora gli uomini di Giuda e qui unsero Davide re della casa di Giuda. Primo episodio. Come fu annunciato a Davide che gli uomini di Jabes di Galaad avevano sepolto Saul, Davide inviò messaggeri agli uomini di Jabes di Galaad per dire loro: benedetti voi dal Signore perché avete compiuto questo gesto d'amore verso Saul, vostro Signore, dandogli sepoltura. Vi renda dunque il Signore amore e fedeltà. Anche io farò voi del bene perché avete compiuto quest'opera. Ora riprendano coraggio le vostre mani e siate forti. È morto Saul, vostro Signore, ma quelli della tribù di Giuda hanno unto me come re sopra di loro. Quindi Davide diventa re di Giuda. Successivamente ci sono una serie di vicende. Al capitolo 5 vediamo come Davide diventa re di tutto Israele. E anche qui andiamo al capitolo 5 di Samuele e leggiamo l'episodio. Non ricordo i riferimenti precisi. Quindi dobbiamo leggere i primi 5 versetti del capitolo 5. Vennero allora tutte le tribù di Israele da Davide a Ebron e gli dissero: ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando Saul regnava su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai Israele, il mio popolo Israele, e tu sarai capo di Israele. Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re a Ebron, e il re Davide concluse con loro un'alleanza ad Ebron davanti al Signore. Ed essi unsero Davide, re di Israele. Davide aveva 30 anni quando fu fatto re. Notate l'età, eh? E regnò 40 anni. A Ebron regnò su Giuda 7 anni e 6 mesi. E a Gerusalemme regnò 33 anni su tutto Israele e su Giuda. E questo, quindi, vediamo Davide all'apice, diciamo così, della sua potenza. Ora c'è un gesto molto significativo che ci fa comprendere anche il cuore di Davide. A Gerusalemme viene solennemente intronizzata, diciamo così, come cerimonia solenne, anche in relazione al fatto della regalità su tutto Israele di Davide, l'arca, che ancora c'era, ancora non era stata trafugata. L'episodio è molto significativo perché ci mostra un po' il coraggio di Davide ed è edificante per gli aspetti che adesso vedremo. Leggiamo quindi il 6° capitolo del libro di Samuele. Allora, Davide reclutò di nuovo tutti gli uomini scelti in Israele, il numero di 30.000. Si alzò e partì con tutta la sua gente da Bala di Giuda per far salire di là l'arca di Dio, sulla quale si proclama il nome del Signore degli eserciti che siede sui cherubini. Posero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la torsero dalla casa di Abinadab che era sul colle. Uzza e Achio, figli di Abinadab, conducevano il carro nuovo. Mentre conducevano il carro con l'arca di Dio dalla casa di Abinadab che stava sul colle, Achio precedeva l'arca. Davide e tutta la casa di Israele danzavano davanti al Signore con tutte le forze, con canti e con cetre, arpe, tamburelli, sistri e cimpani. Giunti all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio e la sostenne perché i buoi vacillavano. L'ira del Signore si accese contro Uzza, Dio lo percosse per la sua negligenza ed egli morì sul posto, presso l'arca di Dio. Davide si rattristò per il fatto che il Signore aveva aperto una breccia contro Uzza. In quel giorno ebbe timore del Signore e disse: ma come potrà venire da me l'arca del Signore? Quindi Davide non volle trasferire l'arca del Signore presso di sé nella città di Davide, ma la fece dirottare in casa di Obed-Ebon di Gad. Di Gat, dove rimase per 3 mesi. Andiamo un pochino avanti. Poi fu detto al re Davide: il Signore ha benedetto la casa di Obed Edom e quanto gli appartiene a causa dell'arca di Dio. Allora Davide ci ripensa, quindi dice: va bene. Allora Davide andò e fece salire l'arca di Dio dalla casa di Obed Edom alla città di Davide con gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli molò un giovenco e un ariete grasso. Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore. Davide era cinto di un efod di lino. Così Davide e tutta la casa di Israele facevano salire l'arca del Signore con gridi al suono del corno. Quando l'arca del Signore entrò nella città di Davide, tuttora oggi si contempla la cittadella di Davide, quindi la parte occidentale di Gerusalemme, Mical, figlia di Saul, guardando dalla finestra il re Davide che saltava e danzava dinanzi al Signore, lo disprezzò in cuor suo. Introdussero dunque l'arca del Signore, la collocarono al suo posto, eccetera. Saltiamo un po', andiamo al versetto 20. Davide tornò per benedire la sua famiglia, gli uscì incontro Mical, figlia di Saulo, e gli disse: «Bell'onore che si è fatto oggi il re di Israele, scoprendosi davanti agli occhi delle serve e dei suoi servi, come si scoprirebbe davvero un uomo da nulla». Davide rispose a Mical: «L'ho fatto dinanzi al Signore, che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi capo sul popolo del Signore, su Israele. Ho danzato davanti al Signore, anzi mi abbasserò anche più di così, e mi renderò vinta e mi renderò vile ai tuoi occhi, ma presso quelle serve di cui tu parli, proprio presso di loro, io sarò onorato». Mical, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua morte. L'insegnamento di questo episodio è duplice. Numero 1, Uzzà tocca l'arca e muore. Non bisogna prendersi troppa confidenza con le cose di Dio. Insegnamento: ogni riferimento ad alcune prassi oggi in giro per la Santa Romana Chiesa Cattolica è puramente voluto, ecco, ed è fondato su questo passo. Chi ha osato toccare l'arca, dove erano custodite le tavole della legge, la manna e la verga di Aaron, è morto sul colpo, perché non era un sacerdote, Uzzà. Basta, ci fermiamo direttamente qui. Il resto lo lasciamo all'ispirazione dello Spirito Santo. Poi c'è questo gesto di Davide che vedete, si umilia davanti, lo fa apposta, lo fa, compie un gesto, come dire, dimostrativo di umiliazione davanti al Signore per rendergli grazie del dono fattogli di regnare sul re su Israele, sfidando il disprezzo delle persone, perché questa lo disprezza. Dice: vabbè, è la figura che tu hai fatto, ecco. Quindi, sulla base di questo brano siamo autorizzati, non troppo e non troppo spesso, qualche volta, a fare qualche gesto anche forte che serva chiaramente a umiliarci e a dare l'esempio di come si onora il Signore davanti a tutti. Chi lo fa deve sapere che incontrerà le stesse conseguenze di Davide. Ci sarà qualcuno che lo va a disprezzare profondamente in cuor suo. Però quando Davide a dire: ma guarda che, guarda, guarda, bello onore che si è fatto il re, ha detto: ah sì? Faccio questo e faccio pure peggio. Se tu dici così. Quindi, vedete come emerge il cuore generoso di Davide. Cioè, Davide era un cuore, abbiamo visto la volta scorsa per esempio la magnanimità verso i nemici, lo rivedremo ancora. E anche, come dire, lo zelo per Dio e il coraggio nelle cose di Dio, oltre che il coraggio militare. Quindi era un uomo dal cuore grande, e questo cuore grande, insomma, gli ha causato il permanere nell'amicizia di Dio nonostante tutti i guai che ha combinato e che tra poco cominceremo a vedere. Procediamo, andiamo avanti, che a un certo punto, qui non lo rileggiamo perché... sapete perché? Perché l'abbiamo sentito domenica scorsa, c'è la profezia di Natan al secondo Samuele numero 7, quando Davide dice che vuole costruire un tempio al Signore e Natan gli risponde: no, sarà il Signore che costruirà a te una casa, non tu al Signore. Quindi c'è l'arca arriva da Gerusalemme e Davide dice: ma io abito in una reggia e l'arca abita sotto quattro regni di cedro, dice, bisogna fare un tempio. A Davide non fu concesso di fare un tempio al Signore, e poi gli sarebbe stato spiegato perché Davide aveva versato troppo sangue. Il tempio al Signore lo avrebbe costruito, lo vedremo se Dio vuole la prossima volta, suo figlio Salomone, in un periodo, diciamo così, di grande pace per Israele. Tenete presente che i capitoli che stiamo saltando, se andate a vederli voi, sono tutti quanti capitoli di scorribande, di guerre, insomma, di situazioni di tensione militare continua che c'è stato durante il regno di Davide con i popoli limitrofi, non con i Filistei, ma non solo con i Filistei. Proseguiamo. Ecco, adesso diciamo che inizia un po' la parte centrale dell'incontro di questa sera: i peccati di Davide e i castighi divini. Non so chi di voi conosce la storia di Davide. Allora, Davide commette un peccato gravissimo, quindi si stanzia, che è, diciamo così, duplice: prima l'adulterio e poi l'omicidio. Leggiamo l'edificantissimo capitolo undicesimo tutto insieme, ecco, per renderci conto di quello che è successo. Siamo al capitolo 11 del secondo libro di Samuele. Allora, qui capiremo anzitutto come l'ozio è padre dei vizi. All'inizio dell'anno successivo, al tempo in cui i re sono soliti di andare in guerra, Davide mandò Joab, suo generale, con i suoi servitori e con tutto Israele a compiere devastazioni contro gli ammoniti. Posero l'assedio a Rabbà mentre Davide rimaneva a Gerusalemme. Un tardo pomeriggio Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia, quindi si era fatto un bel sonnellino e poi si è messo a oziare facendo le passeggiatine oziose. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era molto bella d'aspetto. Davide mandò a informarsi sulla donna, gli fu detta Bezzabea, figlio di Eliam, moglie di Uria Littite. Allora Davide dice: me la portate a casa mia. Mandò messaggeri a prenderla. Ella andò da lui ed egli giacque con lei, che si era appena purificata dalla sua impurità. Chiaramente tutte le femminucce stanno capendo bene. Poi ella tornò a casa. Ora guarda un po', la donna concepì e mandò ad annunciare a Davide: sono incinta. Allora attenzione, cosa fa Davide? Pensiero. Dice: c'era Uria, che era il marito, che stava combattendo presso Joab. Dice: mo lo chiamo, lo mando a dormire con la moglie, vuole tappare le orecchie e copriamo il misfatto. Solo che non ha fatto i conti col fatto che la povera gente, molte volte tra la povera gente ci stanno i santi. Allora manda a chiamare Uria. Joab mandò Uria da Davide. Arrivato Uria, Davide gli chiese come stessero Joab e la truppa e comandasse la guerra. Poi Davide disse a Uria: scendi a casa tua e lavati i piedi. Uria uscì dalla reggia e gli fu mandata dietro una porzione delle vivande del re. Quindi va a casa, fatte una bella magnata e poi. Solo che fa Uria? Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. Perché ha fatto così? La cosa fu riferita a Davide, Uria non è scesa a casa sua. Allora Davide disse a Uria: ma non vieni forse da un viaggio? Ma perché dunque non sei scesa a casa tua? Uria rispose a Davide: scusa, l'arca Israele e Giuda abitano sotto le tende. 1. Joab, mio signore, e i servi del mio signore sono accampati in aperta campagna, stanno facendo la guerra, e io dovrei entrare in casa mia per mangiare e bere e per giacere con mia moglie. Ma per la tua vita e per la vita della tua persona non farò mai una cosa del genere. Sapete Davide com'era contento, no? Allora Davide disse a Uria: facciamo un altro, il piano B. Lo facciamo rimanere un altro giorno, lo invito a cena, lo faccio a boffare, ubriacarsi, dopo gli dico: vai da Bezzabea, vatti a fare una bella dormita. Quindi questo era il piano B. Allora, Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il seguente. Davide lo invitò a mangiare e a bere, con sé lo fece ubriacare. La sera Uria uscì, ma per andarsene a dormire sul suo giaciglio con i servi del suo signore. E andò a casa sua. E mo che facciamo? Allora Davide prende il piano C. Dice: lo sai che facciamo adesso? Guarda, ci sta la guerra, facciamo una bella letterina a Joab. Allora, la mattina dopo Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mano di Uria. Nella lettera aveva scritto così: ponete Uria sul fronte della battaglia più dura, poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia. Siccome questo è troppo santo, che facciamo? Mo lo facciamo ammazzare, così mi prendo Bezzabea, me la tengo con me e la facciamo finita. Pito? Joab, che in questo era simile ai gerarchi di Hitler, che gli dicevano di fare delle cose brutte, e loro dicevano al processo di Nuremberg: ah, ma noi abbiamo obbedito alcuni ordini, Joab qui non doveva obbedire, questo era un ordine cattivo, però per eccesso di devozione ha obbedito. Quindi cosa succede? Joab, che assediava la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che c'erano uomini valorosi. Gli uomini delle città fecero una sortita e attaccarono Joab, caddero parecchi della truppa e tesero i servi di Davide, e perì anche Uria l'ittita. Saltiamo un pezzetto, quindi Joab scrive una bella letterina dove annuncia che anche Uria è morto. Versetto 26. La moglie di Uria, saputo che Uria suo marito era morto, fece il lamento per il suo signore. Passati i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere e la aggregò alla sua casa. Piano perfettamente riuscito. Ella diventò sua moglie e gli partorì un figlio. Quindi nasce questo problema. Ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore. Cosa succede quindi? Succede che si va al capitolo seguente. Arriva il grillo parlante. Capite, no? Il grillo parlante è Nathan. Quindi si va al capitolo seguente e Nathan racconta a Davide una bella paraboletta. La paraboletta della pecorella. Andiamo a sentire che bella pecorella, la paraboletta della pecorella. Il Signore mandò il profeta Nathan a Davide e Nathan andò da lui e gli disse: due uomini erano nella stessa città. Uno era ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero, mentre il povero non aveva nulla se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprato, e era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i suoi figli, mangiando del suo pane, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Che succede? Un viandante arrivò dall'uomo ricco e questi, evitando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso quanto era da servire al viaggiatore re che era venuto da lui, prese la pecorella di quel povero uomo e la servì all'uomo che era venuto da lui. E ha tolto l'unica pecorella, lui che ce l'aveva tante. L'ira di Davide si accese contro quell'uomo e disse a Nathan: per la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno di morte. Pagherà 4 volte il valore della pecora per aver fatto una tal cosa e non averla evitata. Allora Nathan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Tu sei quell'uomo. Così dice il Signore Dio di Israele: caro Davide, io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul. Ti ho dato la casa del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda. E se questo fosse troppo poco, vi avrei aggiunto anche dell'altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'ittita. Hai preso in moglie la moglie sua e le hai ucciso con la spada degli ammoniti. Adesso ascolta bene, hai fatto questo? Benissimo. 1. La spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l'ittita. Così dice il Signore: io sto per suscitare contro di te il male dalla tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro che giacerà con loro alla luce di questo solo, perché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del sole. Allora Davide disse a Nathan: ho peccato contro il Signore. Dopodiché è andato nel suo studio e ha scritto il Salmo 50 in questa circostanza. Lo conoscete? Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore. L'ha scritto dopo questo episodio. Nathan rispose a Davide: il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai. Tuttavia, poiché con questa azione tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è nato dovrà morire. Quindi il figlio dell'adulterio deve morire. Allora che succede? Il Signore dunque colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide. Il bambino si ammalò gravemente. A Davide allora fece suppliche a Dio per il bambino, si mise a digiunare e quando rientrava per passare la notte dormiva per terra. Digiuni e dormimenti per terra. Gli anziani della sua casa insistevano presso di lui perché si alzasse da terra, ma egli non volle e non prese il cibo con loro. Che succede? E il bambino muore lo stesso. Ora, il settimo giorno, il bambino morì e i servi di Davide temevano di annunciargli che il bambino era morto, perché dicevano: ecco, quando il bambino era ancora vivo, noi gli abbiamo parlato e non ascoltato le nostre parole, ma cosa faremo ora? Come faremo ora a dirgli che il bambino è morto? Farà di peggio. Davide si accorse che i suoi servi bisbigliavano fra loro, comprese che il bambino era morto e disse ai suoi servi: è morto il bambino? Quelli risposero: è morto. Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse e si cambiò le vesti. Poi andò nella casa del Signore e si prostrò. Rientrato in casa, chiese che gli portassero del cibo e lo mangiò. I suoi servi gli dissero: questo è un po' matto. Dice: ma che cosa fai? Per il bambino ancora vivo e digiunato e pianto, e ora che è morto ti alzi e mangi? E gli rispose: quando il bambino era ancora vivo digiunavo e piangevo perché vi dicevo: chissà, forse il Signore avrà pietà di me e il bambino resterà vivo, ma ora che egli è morto perché digiunare? Potrei forse farlo ritornare, andrò io da lui, ma lui da me non tornerà. Poi Davide consolò Bezzabea, sua moglie, andando da lei e giacendo con lei. Così partorì un figlio che egli chiamò Salomone. Il Signore lo amò e mandò il profeta Natan perché lo chiamasse Jedidiah per ordine del Signore. Ora, a questo punto potremmo farci le quattro di notte su questo episodio, d'accordo? Esiste proprio una. L'episodio è assolutamente fondamentale perché ci fa comprendere bene la realtà seria e profonda del peccato. Dopo vedremo tutte queste cose, tutte alla lettera, Davide non ha avuto più pace per tutta la vita dopo questo che ha fatto. È stato perdonato, ma l'ha scontate fino all'ultimo centesimo, tutte. Allora, questo episodio ci fa capire che il peccato è una cosa grave e che se uno lo fa andrà incontro a delle conseguenze gravi fin da qui. Quindi non state a dar retta a tutte quante le cretinate di quelli che dicono che Dio non castiga i peccati. Non è vero questo qui. Andate a raccontare a Davide, fategli un colpo di telefono adesso che sta in paradiso, fategli un sms, chiedete se è vero. Non è vero. Cioè, non soltanto che vengono puniti e castigati esattamente in modo uguale e contrario a quello che tu hai fatto. Hai rubato una donna di nascosto, le tue davanti a tutti. Hai ucciso uno di spada, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, adesso vedremo tra poco. Contro Davide gli si è rivoltato il figlio prediletto, Assalonne, lui è dovuto scappare da lui, l'avrebbe ammazzato il figlio al padre per usurpargli il regno. Tutta la vita di Davide è stata così, un tormento continuo a causa di questa cosa. La cosa importante è che Davide si umilia, a differenza di noi, cioè lui i castighi li accetta. Vedremo adesso poi come si comporta in alcune circostanze. Per cui, la combinata grossa? Sì. Si è pentito? Sì. E ha accettato tutte quante le conseguenze. Cioè, se noi abbiamo combinato dei guai, la nostra vita non è come se i guai non l'avessimo combinati. Dovremmo andare incontro ad alcune conseguenze. Non c'è niente da fare. La prima penitenza da fare è accettare le conseguenze in cui siamo messi a causa dei peccati nostri, d'accordo? Mea culpa, mea maxima culpa. Ci vuole una grande umiltà per fare questo. Quindi, ma quanta gente si ritrova in un mare di guai e anziché sta a dire: ah, il Padre Eterno, ah, qua, e perché qua, comincia a dire: ma io che ho fatto? Quindi bisogna levarsi dalla mente l'idea sbagliata della misericordia di Dio. Come la misericordia di Dio significa: tu hai fatto un peccato, ti confessi e poi, un po', ti lascio. diciamo così, è finito. Non è finito. Non è finito. Finisce, sentite, il Signore ha perdonato il tuo peccato. Però, uno, la spada, due, le mogli e tre, il figlio muore. Chiuso, fine. E non ci sono stati santi, digiuni, dormite per terra, niente, è morto. This is word of God, parola di Dio, quindi non parola degli uomini o dei gallinacci de sezze, come li chiamava mia madre, che scrivono su famiglie cristiane, su altre riviste o su altri libri, un sacco di cretinate, frutto della capoccia loro, d'accordo? Ma la Bibbia non, ma questo è un episodio emblematico, ma ce ne stanno una caterva di episodi. È sommamente diseducativo andare a insegnare una cosa di questo genere. Perché tu devi sapere, cioè, non è soltanto come dire, una sorta di specie di terrorismo religioso, ah, guarda che se fai una cosa poi Dio ti castigherà, quindi tu c'hai paura. Non è questa la. Tu devi capire che le cose che fai hanno delle conseguenze nefaste, per questo che non le devi fare. E quelle conseguenze nefaste ti tornano tutte quante al pettine, tutte, nessuno escluso. Dio non può eliminare una cosa di questo genere, perché sarebbe sommamente diseducativo, capite? Cioè, non può andare a riparare i danni che hai fatto tu, te li ripari da solo. Non so se quando stanno i morti di mezzo, quello bambino è morto, non risuscitano poi, quindi ci sono alcune situazioni, alcuni mali che noi facciamo che sono irreversibili, purtroppo. Quindi non si possono prendere le cose a cuor leggero. Cioè, una dottrina sbagliata della misericordia di Dio è quanto di più sommamente diseducativo possa esistere. Noi dobbiamo sapere che Dio ha sempre le braccia aperte, come al figlio al prodigo, sempre. E basta che uno si pente per avere il perdono. Però i peccati non bisogna farli, perché una volta che fai sono male, sono morte per te e per chi ti sta intorno. E tutto quanto il male che hanno attivato ti ricade addosso, o qui o dopo, spesso e volentieri qui e dopo, d'accordo? Quindi non ci piacciono queste cose qui, però prima ce le mettiamo in testa. A nessuno, ma anche a me mi piacciono queste cose qua, però ti piacciono o non ti piacciono, te le devi mettere in testa il più presto possibile, perché questa è la verità. Quindi, dopo tutti quanti questi castighi divini, abbiamo sentito la nascita di Salomone e quindi si apre un capitolo nuovo. Adesso il proseguo della storia di Davide è andare a vedere come queste profezie si compiono e come reagisce Davide dinanzi ai guai grossi in cui comincia a versare la sua esistenza. Anzitutto la drammatica storia col figlio Assalonne. Allora, cosa fa Assalonne? Ecco, vedete qui Davide, lì dietro c'è il figlio Assalonne morto. Allora, anzitutto ordisce una rivolta. È inutile andare a leggere il... Comincia, forse qualcosa è meglio, qualche versettino rapido, è meglio dargli un'occhiata per renderci conto. Comincia a fare delle operazioni proprio brutte, proprio balorde. Guardate, dopo questo Assalonne si procurò un carro, cavalli e 50 uomini che correvano innanzi a lui. Si alzava la mattina presto e si metteva da un lato della via di accesso alla porta della città. Guardate che fa, Quando qualcuno aveva una lite e veniva da re per il giudizio, Assalonne lo chiamava e gli diceva: di quale città sei? L'altro gli rispondeva: il tuo servo è di tale e tale tribù di Israele. Allora Assalonne gli diceva: vedi, le tue ragioni sono buone e giuste, ma nessuno ti ascolta per conto del re. Assalonne aggiungeva: se facessero me giudice del paese, chiunque avesse una lite o un giudizio verrebbe da me gli fare giustizia. Quando uno gli si accostava per prostrarsi davanti a lui, gli porgeva la mano, l'abbracciava e lo baciava. Assalonne faceva così con tutti gli israeliti che venivano dal re per il giudizio. In questo modo Assalonne si accattivò al cuore degli israeliti. Ora, dopo 4 anni, Assalonne disse al re: vorrei andare ad Hebron a sciogliere un voto che ho fatto al Signore. In realtà ad Hebron va ad organizzare il colpo di Stato. Ora a un certo punto va ad Hebron, ad Hebron si fa ungere re, saltiamo un pochino. Versetto 12, la congiura divenne potente e il popolo andava aumentando intorno ad Assalonne. Arrivò un informatore da Davide, i servizi segreti esistevano già da loro, e disse: il cuore degli israeliti è con Assalonne. Allora Davide disse a tutti i suoi servi che erano con lui a Gerusalemme: alzatevi, fuggiamo, altrimenti nessuno di noi scamperà dalle mani di Assalonne. Partite in fretta, perché non si affretti lui a raggiungerci e faccia cadere su di noi la rovina e passi la città a fil di spada. Il grande re di Israele deve prendere la strada sotto le gambe e sbrigarsi a scappare. Per questo si era già organizzato un esercito al seguito, ed era il figlio. Allora, capitolo 16. Allora, Davide esce da Gerusalemme, gli sta a Gerusalemme, esce dalla parte est, quindi va sopra il Getsemani, salendo sul Monte degli Ulivi per poi dirigersi, diciamo, in direzione est, quindi in direzione Giordania. Che succede? Qui incontra un tipo di nome Simei. Sentite che cosa succede. Allora, tocca stare attenti e combina i guai, eh? Allora, quando il re fu giunto a Bacurim, versetto 5, ecco uscire da là un uomo della famiglia della casa di Saul, chiamato Simei, figlio di Geria. Egli usciva imprecando, quindi gli mandava gli accidenti, e gettava sassi contro Davide e contro tutti i servi del re Davide, mentre tutto il popolo e tutti i prodi stavano alla sua destra e alla sua sinistra. E così Simei malediceva Davide: vattene, vattene sanguinario malvagio, il Signore ha fatto ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul al posto del quale regni. Il Signore ha messo il regno nelle mani di Assalonne, tuo figlio, ed eccoti nella tua rovina perché tu sei un sanguinario. Allora Abisai, figlio di Zeruia, disse al re: perché questo cane morto dovrà maledire il re mio signore? Lascia che io vada e gli tagli la testa. Ovviamente Davide: sì, vai a tagliare la testa. Attenzione. Ma il re rispose: che ho io in comune con voi, figli di Zeruia? Se maledice è perché il Signore gli ha detto: maledici Davide. E chi potrà dire perché fai così? Poi Davide disse ad Abisai e a tutti i suoi servi: ecco, il figlio è uscito dalle mie vesciere, cerca di togliermi la vita, e allora questo beniaminita lasciatelo maledire, poiché gliel'ha ordinato il Signore. Forse il Signore guardirà la mia afflizione e mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi. Davide e la sua gente continuarono il cammino, e Simei camminava sul fianco del monte parallelamente a Davide, e cammin facendo malediceva, gli tirava i sassi e gli lanciava la polvere. D'accordo? E lui zitto a prendersi le sassate e le polverate. Capito? Quindi guardate la sapienza di Davide. Quindi Davide lo sa quello che è successo, quindi riconosce. Cosa che non facciamo mai. Quando qualcuno ci tratta male, ma come si permette questo? Noi non siamo capaci di vedere. Se questo maledice è perché il Signore gliel'ha ordinato. Quindi vuol dire che io mi merito in questo momento di beccarmi quelle maledizioni, e non ha reagito contro di lui, perché ha visto in quell'evento sgradevole la mano di Dio. E si è ricordato che lui, in quanto peccatore, si merita quello e anche di peggio. Ecco. Chiediamo al Santo Re Davide che ci trasmetta qualcosa di questa sapienza. Ecco. Perché noi, che forse ne abbiamo fatti pure peggio, vabbè, forse l'omicidio no, però forse non sempre siamo capaci di riconoscere negli eventi sgradevoli della vita, in chi ci maltratta, è la mano di Dio. Sant'Alfonso Maria de Liguori, tutti i maestri grandi di spirito, dicono: quando qualcuno fa un peccato contro di noi, cioè ci tratta male, ci ingiuria, ci calunnia, ci fa le maldicenze, eccetera. Bisogna considerare che Dio non vuole la colpa morale di quella persona e la punirà, però Dio l'ha permessa quella cosa, quindi vuole che tu patisca le sofferenze di quel male che ti sta facendo. Questo lo vuole. È come nella passione di Gesù. Io dissi, Dio voleva e approvava quello che facevano contro Gesù durante la sua passione? No. Ma il Padre voleva che Gesù Cristo patisse in quel modo per la nostra salvezza? Sì. Vi prego di ricordarvele queste cose perché vi aiuteranno a campare un po' meglio. Ecco. Perché la fede ci aiuta anche a campare un po' meglio. Ecco. Oh. A un certo punto poi, va bene, scorribande, battaglie, Assalonne muore. Capitolo 18, versetti 9-15, anche questo è da andare a vedere perché più che la morte bisogna vedere poi come reagisce Saul alla morte di Assalonne. Scusate, Davide. Ora Assalonne si imbatté nei servi di Davide. Assalonne cavalcava il mulo. Il mulo entrò sotto il groviglio di una grande quercia e la testa di Assalonne rimase impigliata nella quercia, e così egli restò sospeso fra cielo e terra, mentre il mulo che era sotto di lui passò oltre. Immaginate un po' la scena, no? Un uomo lo vide e venne a riferire a Joab. Ho visto Assalonne appeso a una quercia. Joab rispose all'uomo che gli portava la notizia. Dunque l'hai visto? E perché non l'hai steso al suolo? Tu, sul posto. Io ti avrei dato 10 sicli d'argento e una cintura. Ma quell'uomo disse a Joab, quando anche mi fossero messi in mano 1000 sicli d'argento, io non stenderei la mano sul figlio del re. Perché con il nostro re che abbiamo udito l'ordine che il re ha dato a te, ad Abisai e ad Ittai, quando erano scesi in campo, gli aveva detto, in guerra, gli aveva detto, distruggete i miei nemici, ma non preservate la vita di Assalonne. Proteggetemi il giovane Assalonne. Ma se io avessi agito con perfidia di mia testa, poiché nulla rimane nascosto al re, tu avresti preso le distanze. Allora Joab disse, io non voglio perdere così il tempo con te. Prese in mano 3 dardi e li ficcò nel cuore di Assalonne, che era ancora vivo nel folto della quercia. 10 giovani scudieri di Joab circondarono Assalonne, lo colpirono e lo finirono. La fine dei ribelli. Che succede però? Poi glielo vanno a riferire a Davide, subito dopo, e vediamo che cosa succede con il riferimento. Suona il corno, eccetera. Achimaas disse, correrò a portare la bella notizia, versetto 19, che il Signore l'ha liberato dai suoi nemici. Versetto 24. Davide stava seduto fra le due porte, la sentinella salì sul tetto della porta, sopra le mura, alzò gli occhi, guardò, ed ecco vide un uomo correre tutto solo. Il re disse, se è solo, ha in bocca una bella notizia. Benissimo, si incontrano, Achimaas gridò al re pace, si prostrò con la faccia a terra e disse, benedetto sia il Signore tuo Dio che ha fermato gli uomini che avevano alzato le mani contro il re mio Signore. Il re disse, il giovane Assalonne sta bene? Achimaas rispose, quando Joab mandava il servo del re e me tuo servo, io vidi un gran tumulto, ma non so cosa fosse. Il re gli disse, mettiti là da parte. Ecco arrivare l'etiope che disse, si rallegri per la notizia, il re mio signore, il signore ti ha liberato oggi da quanti erano insorti contro di me. Il re disse all'etiope, il giovane Assalonne sta bene? L'etiope rispose, diventino come quel giovane nemici del re mio signore, quanti insorgono contro di te per farti del male. Allora il re fu scosso da un tremito, salì al piano di sopra della porta e pianse e disse andandosene, figlio mio Assalonne, figlio mio Assalonne, fossi morto io invece di te Assalonne, figlio mio. Vedete com'era Davide. Fu riferito a Joab, ecco, il re piange e fa lutto per Assalonne. La vittoria in quel giorno si cambiò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno il re desolato a causa del figlio. Il popolo in quel giorno rientrò in città furtivamente, come avrebbe fatto gente vergognosa per essere fuggita durante la battaglia. Il re si era coperta la faccia e gridava a gran voce: figlio mio, Assalonne, Assalonne, figlio mio, figlio mio. Quindi vedete, Davide è un pochettino, vedete, che sia per il suo comportamento verso Saulo che per questo verso Assalonne, dicono i padri della Chiesa, che è un po' figura di Gesù, l'amore verso i nemici, quindi la capacità di amare anche chi gli faceva del male. Andiamo all'ultima slide per vedere l'ultimo periodo di Davide. Siccome ancora non gli era bastato, perché vedete che l'uomo, gli viene un'altra idea malsana. Dice: adesso facciamo un bel censimento. Non c'era l'Istat allora, quindi dice: facciamo un bel censimento. Allora andiamo a vedere l'episodio. Il censimento era un atto molto grave. Perché era grave, voi direte, adesso lo capiremo subito. L'ira del Signore si accese di nuovo contro Israele e incitò Davide contro il popolo in questo modo: fa il censimento di Israele e Giuda. Il re disse a Joab, capo dell'esercito: percorri tutte le tribù di Israele e fa il censimento del popolo, perché io conosca il numero della popolazione. Joab rispose al re: il Signore tuo Dio aumenti il popolo 100 volte più di quello che è, e gli occhi del re mio signore possano vederlo. Ma perché il re mio signore vuole questa cosa? Ma l'ordine del re prevalse su Joab e sui comandanti dell'esercito, e Joab e i comandanti dell'esercito si allontanarono dal re per fare il censimento del popolo di Israele. Voi capite, questo era un gesto superbo. Facevano anche i romani per dire: vediamo quanti sono i sudditi. Quindi per compiacersi del loro grande potere. Era una cosa che ieri più di oggi creava degli incomodi, perché uno doveva muoversi per andarsi, come ha fatto poi Gesù nella sua nascita. Gesù è nato a Betlemme perché dovevano andare ognuno nella città natale per farsi registrare, come era la legge di allora. E quindi fanno sto censimento. Poi, dopo che ebbe contato il popolo, versetto 10, il cuore di Davide gli fece sentire rimorso ed egli disse al Signore: ho peccato molto per quanto ho fatto. Ti prego, Signore, togli la colpa del tuo servo, perché io ho commesso una grande stoltezza. Cosa farà nostro Signore adesso? Al mattino, quando Davide si alzò, fu rivolta questa parola del Signore al profeta Gad, veggente di Davide. È cambiato, però. Va a riferire a Davide: così dice il Signore, io ti propongo 3 cose. Scegline una e quella ti farò. Gad venne dunque a Davide e gli riferì questo e disse: dunque, vediamo un po' cosa scegli, quale sanzione vuoi? Allora, 7 anni di carestia nella tua terra, o 3 mesi di fuga davanti al nemico che ti insegue, o 3 giorni di peste nella tua terra? Ora rifletti e vedi che cosa io debba riferire a chi mi ha mandato. Voi che avreste fatto? Davide rispose a Gad: sono in grande angustia, ebbene cadiamo nelle mani del Signore, perché la sua misericordia è grande, ma che io non cada nelle mani degli uomini. Vedete Davide cosa dice? La sua misericordia è grande, e Davide è stato uno suonato da nostro Signore. Così il Signore mandò la peste in Israele, da quella mattina fino al tempo fissato, 3 giorni di peste. Stecchiti 70.000 persone da Dan a Bersabea con 3 giorni di peste. Quindi, capito i danni di Davide? Cioè, sulla coscienza 70.000 morti per l'ultima sua smargiassata prodezza. Quando l'angelo ebbe steso la mano su Gerusalemme per devastarla, il Signore si pentì, espressione antropomorfica, l'abbiamo già vista nel libro della Genesi, di quel male, disse all'angelo devastatore: ora basta, ritira la mano. L'angelo del Signore si trovava presso l'aia di Araunà, il Gebuseo. Davide, vedendo l'angelo che colpiva il popolo, disse al Signore: ma io ho peccato, io ho agito male. Ma queste pecore che hanno fatto, la tua mano venga contro di me e contro la casa di mio padre. Va bene, ci fermiamo qui. Però questo episodio aggiunge, ecco, che a volte una grossa stupidaggine che noi facciamo può produrre delle conseguenze nefaste non solo a noi, ma anche intorno a noi. Dopo voglia a piangere. Quindi è fondamentale cercare di impedire e di evitare di fare cose che potrebbero poi causare degli effetti controproducenti e gravemente controproducenti non solo in noi ma anche fuori di noi. Quindi il censimento e il castigo. Dopodiché la storia di Davide finisce con la elezione di Salomone come suo successore. Quando Davide comincia a invecchiare, ve lo faccio un pochino breve per ci prepariamo al passaggio della prossima volta. Alcuni pezzi grossi, ieri come oggi, cominciano a tramare per vedere se riescono a prendere il potere alla morte di Davide. Ecco. Soltanto che Davide ha già deciso che il suo successore sarebbe stato Salomone, per una serie di circostanze interviene Bezzabea, riferisce a Davide che c'erano delle congiure di corte e Davide fa compiere a Salomone un gesto, dice guarda presentati nella città X, sella la mia mula, presentati dinanzi a loro così capiranno che tu sei il re e così capiranno che quando io muoio devi essere eletto re. E così sarà fatto e così sarà. Ecco. E poi Davide nel secondo capitolo del libro dei re muore, ecco, quindi preparando la successione, quindi lasciando come suo successore il figlio Salomone. Adesso lo prendiamo. Allora, leggiamo i primi 12 versetti, chiudiamo così oggi, del secondo capitolo del primo libro dei re, da cui poi ripartiremo per la prossima volta. I giorni di Davide si erano avvicinati alla morte ed egli ordinò a Salomone suo figlio: io me ne vado per la strada di ogni uomo sulla terra. Tu sii forte e mostrati uomo, osserva la legge del Signore tuo Dio, procedendo nelle sue vie ed eseguendo le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme e le sue istruzioni, come sta scritto nella legge di Mosè, perché tu riesca in tutto quello che farai e dovunque ti volgerai. Perché il Signore compie la promessa che mi ha fatto dicendo: se i tuoi figli nella loro condotta si cureranno di camminare davanti a me con fedeltà, con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima, non ti sarà tolto un discendente dal trono di Israele. Anche tu sai quel che ha fatto a me Joab, figlio di Zeruiah, cioè come gli ha trattato i due capi dell'esercito di Israele, Abner, figlio di Ner, e Amasa, figlio di Jeter, come li ha uccisi spargendo in tempo di pace il sangue di guerra e mettendo sangue di guerra sulla sua cintura che era intorno ai suoi fianchi e sul suo sandalo che era ai suoi piedi. Agirai con la tua saggezza e non permetterai che la sua vecchiaia scenda in pace agli inferi. Agirai con bontà verso i figli di Barzillai in Galadita e saranno tra coloro che mangiano la tua tavola perché mi hanno assistito mentre fuggivo da Assalone tuo fratello. Ed ecco accanto a te Simei, figlio di Gera, quello che malediceva Davide quando usciva da Gerusalemme, beniaminita di Bacurim. Egli mi maledisse con una maledizione terribile nel giorno in cui andavo a Macanaim. Ma discesi incontro a me al Giordano e gli giurai per il Signore: non ti farò morire di spada. Ora però non lasciarlo impunita. Infatti tu sei un uomo saggio e sai ciò che gli dovrai fare. Fare scendere la sua granizia agli inferi con morte violenta. Ne aveva combinate altre Simei, adesso poi non abbiamo letto tutte quante le cose. Davide si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. La durata del regno di Davide su Israele fu di 40 anni, a Ebron regnò 7 anni e a Gerusalemme regnò 33 anni. Ecco, quindi abbiamo visto un pochino la storia di questo uomo, ecco, e qualcuno l'ha definito peccatore e credente, un uomo dal cuore grande, quindi non è stato una persona, un santo, come dire, impeccabile, però è stato un peccatore che è stato capace di assumersi le conseguenze dei suoi peccati. Quindi quando noi dovessimo essere stati peccatori, dobbiamo prendere esempio da Davide su come dignitosamente si affrontano le conseguenze del peccato, con spirito di umiltà e di penitenza. Ci fermiamo qui e poi riprendiamo, se Dio vuole, martedì prossimo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli.